140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Area Pergolesi, Milano. Da quanto suonano insieme? Non si conta più. Anzi, Pooh. Celebrano la loro storia con Pooh Legend per valorizzare un patrimonio immenso. Ma hai detto giusto, una valorizzazione del nostro passato che per quanto ci riguarda l'avevamo quasi dimenticato, no? Abbiamo casualmente sentito il bisogno e l'esigenza di andare nei nostri archivi e vedere insomma questi filmati. Ed è stata una grandissima scoperta, anche perché sono 50 ore di filmati, tantissima roba, e ci siamo messi veramente mesi di lavoro, abbiamo scelto sicuramente tra le cose più interessanti, però tutto quanto, dai primissimi anni 70 ai giorni nostri. Questo per noi, per la nostra storia, per il pubblico che ha seguito magari i Pooh fin da allora e ancora di più ai giovani che magari non erano ancora nati, che hanno in questo modo la possibilità appunto di conoscere la nostra storia attraverso soprattutto queste immagini. Cosa ti devo dire? Sono tutta la mia vita. Guarda, questa solo ti posso dire. Ma guarda, ci sono delle serate che io ho l'impressione di avere un osso qui nello sterno che mi entra dentro lo stomaco, proprio una punta. È una cosa che è brutta perché faccio fatica proprio a respirare. Ma ti assicuro che non è paura perché io ho abbastanza la faccia di tola, cioè non ho mai avuto paura a salire su un palco. È proprio un'emozione dovuta, non so, forse una grande gioia, ecco. Stasera per esempio qui a San Paolo sarà una cosa incredibile, io credo, perché si prevedono 20-30 mila persone e sapere che 20-30 mila persone sono venute qui solo per te, non sono venute per ballare, non è come quando fai o quando facevamo i concerti in discoteca, qui sono venuti proprio per noi e questo è una cosa che non si può spiegare a parole, ma è un'emozione che uno può provarla solo quando sta lì sopra. Siete ancora belli come il sole, anzi come dove comincia il sole, però rivedervi che effetto vi fa? Ma è un misto tenerezza, benevolenza, insomma ci vogliamo abbastanza bene perché se siamo arrivati fin qui lo dobbiamo a tutto quello che abbiamo fatto in questi video e poi a me piace vedere la parte creativa di dei momenti, in maniera particolare degli anni 70, in cui non ci siamo in un certo senso seduti sugli allori, abbiamo voluto cercare di rimetterci in discussione, abbiamo ripreso in mano, come è accaduto un anno fa, la nostra storia e abbiamo cercato, era anche il momento in cui coraggiosamente la musica affrontava dei temi nuovi, delle maniere diverse di fare musica, però per noi sarebbe stato forse molto più comodo il fatto di, capito, mettersi a sedere e stare tranquilli a vivere sugli allori. Invece vedo amabilmente il fatto che, non so, in questi filmati vedo noi che andiamo in giro nei cantieri a costruire dei palcoscenici con dei fabbri, vedo noi che costruiamo delle pedane di batterie piuttosto che di stage, insomma vedo con benevolenza questa nostra voglia di portare avanti questo sogno che ci ha poi portato fino a oggi. Siccome quest'anno parte l'Inver, che subito dopo la presentazione del buongiorno eccoci qua, e dovrebbe partire il laser proprio su quel momento là, non possiamo fare l'attacco come gli anni scorsi che partiamo tutto in sfumare. Tu, mentre c'è ancora la presentazione, è sotto un tappeto della nota. Quando poi la situazione delle luci si va spegnendo perché finisce la presentazione, prima che parta la leggera rialza, diamo un colpo proprio tutti quanti insieme, tipo, non so, troviamo una situazione tutta. La gente che collabora con noi comincia, diciamo, un mese prima dell'inizio della tournée, un mese e mezzo, anche due, a provare insieme a noi giorno dopo giorno, a mettere insieme quelle che sono le sceneggiature, le immagini, le scene, gli effetti che vogliamo dare appunto a quello che è la parte spettacolare del nostro concerto. C'è una seconda fase che è quella appunto di cercare di riordinare tutte queste cose, e avviene qui appunto a Budrio, in questo teatro meraviglioso, dove tutti i nostri collaboratori tecnici sono già qui da un mese e mezzo circa. Noi invece siamo arrivati 20 giorni fa. Queste due sono finite? Sì. La blu e l'azzurra, no? Ecco, su questa qua, sul rosso, che si presta forse di più dell'azzurro, oltre al bianco, cioè oltre al rosso più chiaro di sfumatura, come hai usato come concetto qua, entrerei anche col del giallo. Questo addirittura lo possiamo fare adesso in due minuti. Ah, quindi c'è stato subito un punto di serratura qua? È qua. Perché lo, dai, Red, che è anche uno scrittore adesso, c'è questa idea molto bella di dire: abbiamo fatto tanto, adesso facciamo quello che ci piace, che ci soddisfa. Ma credo che ce lo meritiamo, credo che dopo 47 anni di matrimonio fedele, perché noi tre siamo stati assolutamente fedeli, e ogni volta che abbiamo fatto un piccolo lavoro solista era sempre approvato da tutti, credo che ci meritiamo di avere anche quel tipo di libertà creativa che, ripeto, come dicevo prima, secondo me fa soltanto crescere le persone, fa scoprire un lato di noi che è irraccontabile nel gruppo, perché raccontato nel gruppo andrebbe a prevaricare sulle personalità degli altri. Nel gruppo è sempre bello essere distribuiti, però è anche giusto che poi singolarmente uno racconti anche quelle piccole peculiarità del suo carattere, del suo cuore, quelle emozioni che tiene nascoste per pudore o per lavoro, che a un certo punto comincia a raccontare. Ecco perché è giusto fare anche queste cose. Credo che facciano solo bene. Forse la cosa più importante è riuscire a sentirsi bene la mattina davanti allo specchio. Adesso ne parlo professionalmente, cioè proprio per quanto riguarda il nostro lavoro, cioè cosciente di aver fatto una cosa giusta fino a quel momento, cioè di aver suonato bene il giorno prima, di aver fatto il massimo che si poteva fare. Mi piacerebbe al limite che anche certa gente potesse entrare in questo nostro mondo, che poi non è altro che un mondo, diciamo, normale, abbastanza prevedibile. Al limite mi piacerebbe che qualcuno al limite mi vedesse che io mi faccio la barba come tutte le altre persone del mondo, che mi faccio una doccia normalissima e mangio come tutti gli altri, anzi forse meno bene degli altri, in quanto sto sempre in albergo e viaggio avanti e dietro la mattina e la sera. Ho ancora un paio di curiosità. Una è il fatto che stiate per andare in Giappone, addirittura a far cosa? Beh, a suonare. No, è una cosa bella, un'esperienza molto bella. Sono tre concerti a Tokyo. E fra l'altro la cosa carina e simpatica è che loro hanno suggerito un certo tipo di repertorio, soprattutto il repertorio degli anni 70. E questa è una cosa che ci piace veramente molto, perché per quanto ci riguarda lì sono nate anche per i pure cose più interessanti. E niente, un altro mondo, un'altra cultura, ci è stata data questa possibilità e siamo veramente felici e contenti di andare a Tokyo, dopo che siamo stati fra l'altro la settimana scorsa a Tel Aviv, anche lì bellissima esperienza, e prima ancora a Sofia e prima ancora in Canada, per cui stiamo girando il mondo. La nostra vita privata in questi 13 anni è stata abbastanza, così direi, accantonata, anche perché la nostra vita privata è diventata la nostra vita pubblica in pratica, cioè la nostra vita è diventato il fatto di essere insieme, di suonare, di fare i dischi, di fare queste cose qui. Raramente troviamo dei momenti in cui ognuno di noi quattro riesce a stare da solo e a fare delle cose da solo per se stesso. Avete detto una cosa molto bella su Lucio Dalla, che vi ha insegnato due cose fondamentali: talento e leggerezza, ma anche il contatto con la gente. Ma certo, ma io questo noi lo pensiamo profondamente, perché in questo ci rispecchiamo in Lucio. Lucio era una persona che andava in giro per strada, io essendo di Bologna lo vedevo quotidianamente, io abito vicino a lui a 300 metri, per cui spesso lo vedevo, senza guardia del corpo, si mischiava alla gente, e credo che il suo E il nostro grande successo si è determinato proprio da questo tipo di atteggiamento. Non puoi raccontare il cuore della gente se non lo vivi quotidianamente. Siamo perfettamente d'accordo, cioè l'artista deve, se deve raccontare una storia che assomiglia alla gente, deve stare in mezzo alla gente. Chiuso nell'eremo racconterà una storia sua, ma non quella della gente. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Cinema e musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Studio Sottocorno, ufficio stampa, Milano. Il suo grido di battaglia è «Ti stimo, fratello». Ora diventa il titolo del suo primo film, Johnny Groove, anzi Giovanni Vernia. Noi all'inizio dicevamo «Parto col film», adesso dopo un anno diciamo «Film col parto», perché è veramente faticoso fare un film. E poi insomma sei soggetto a tante pressioni, c'è tanta gente che gufa e non capisco perché gufa che vada male, ma noi ci abbiamo messo tutto l'impegno, tutto l'amore possibile in questo film, quindi cioè, non abbiamo creato la solita accozzaglia di gag della televisione messa nel cinema, perché non sarebbe stato come dire costruttivo, non sarebbe stata un'operazione giusta. Abbiamo creato un film che è una storia, che ha dei personaggi, degli attori anche di prestigio, perché c'è Abbatantuono, c'è Maurizio Micheli, c'è Bebo Storti, ci teniamo, ecco. Hai detto c'è molto della tua vita, c'è anche questo fritto misto Puglia, hai stanato Micheli che non vedevamo da un po', poi insomma noi siamo coetanei, abbiamo un ricordo di quel Micheli lì che un po' ci mancava. Io sono convinto, Johnny Groove ne è la testimonianza, che quando racconti qualcosa e vuoi far ridere, quel qualcosa lo devi conoscere perfettamente, perché se incominci a inventare troppo diventa finto e la gente non ci crede e non si diverte. Siccome nella mia vita ci sono tante cose che fanno ridere, tanti personaggi, tanti parenti, tante cose, allora abbiamo deciso proprio di mettere la mia vita sullo schermo, che è particolare la mia vita, poi perché comunque un ingegnere elettronico che diventa un discotecaro è un po' strana come cosa. Poi Maurizio Micheli era l'attore che meglio poteva fare mio papà, perché mio papà è di Gioia del Colle in provincia di Bari e lui ha un'età analoga a mio papà. In più ci intrigava tanto l'idea che lui al cinema non si vede da tanto tempo. Avevamo questo ricordo di Shambam Pembidara un ingondo che è rimasto in tutti, credevamo che ci dicesse di no perché fa solo teatro, e invece lui ha gradito la storia, dice che insomma gli è piaciuto il fatto che era una storia garbata, no? Lui l'ha definita garbata, quindi che significa educata, senza sporcaccionerie, senza parolacce, eccetera eccetera. Non puoi farmi questo, papà? Come no? Come no? Sì, sì. E quando dovrebbe arrivare? Ti presento mio fratello. Certo che vi somigliate tantissimo. Siamo gemelli. Sai cosa sono i gemelli? Ti piacciono i pesciolini? Di brutto, mi piace troppo quando ruggiscono. Posso provarli, fratello? Poesi. Bello. Quanto costa, fratello? 3.500 euro. Brutto, brutto. E siamo noi, e siamo noi, e sono la vita, siamo noi! Immagino che debba essere anche una tua evoluzione professionale, quella di non rimanere poi legato e sposato a Johnny per sempre. Dopo il film Johnny andrà in cantina, cioè nella cantina però quella pregiata, quella dove ci sono gli champagne, no? Perché lo champagne te lo bevi tutti i giorni e ti stufa, invece se te lo bevi ogni tanto è una cosa di lusso, e allora Johnny deve far così, deve vedersi ogni tanto e basta. Parole e dintorni, ufficio stampa, Milano. La sua E tu lo chiami Dio è arrivata a Sanremo con Eugenio Finardi. Ora il suo CD su questo piano che si chiama Terra. Roberta Di Lorenzo. Su questo piano che si chiama Terra gioca con la parola terra e il punto di vista che è questo piano. Quindi questo è l'unico nostro punto di vista. È una visione dal basso verso l'alto. Una visione dell'uomo sulla terra che però apre gli occhi su tematiche o visioni oltre, no? Quello che vedono gli occhi. La stessa copertina cassettina che mi raffigura chiusa dentro questa gabbia di canarino e rappresenta un passaggio da un luogo all'altro, quindi una sorta di, come dire, crescita, no? Si apre una porta, si apre la gabbia, quindi mi libero di tutto quello che è dietro di me, il passato, e mi rinnovo e volo via. A causa di psiche elaboro teorie d'amore, costruisco giornate parlando di rispetto del nostro dovere. A causa di psiche vivo con severità, non ho più motivi importanti, ma solo desideri più grandi. A causa di psiche. La nomination al Tenco, il premio Lunezia, ma discograficamente c'è spazio per questa musica? È un periodo difficilissimo in genere. Ci sono delle realtà, infatti prima parlavamo per esempio del fenomeno dei talent, ci sono svariatissime realtà. Io ho una visione democratica della musica, nel senso che essendo un'arte è giusto che ci sia una libera espressione. Ci sono però poi degli spazi gestiti in maniera quasi folle. Per esempio questa questione dei talent, che è diventata come entrare nei grandi magazzini, come entrare al centro commerciale e trovare qualunque cosa subito e pagarla a metà prezzo pur di averla, no? C'è un gioco perverso che soprattutto devasta le menti dei ragazzini. Io adoro pensare a una realtà molto più ridimensionata, infatti mi sono sempre affidata a piccole etichette indipendenti. Questo per esempio è il risultato della finalista al Tenco, Lunezia. Sono tutti percorsi onesti che arrivano perché poi c'è una squadra dietro che lavora per te. Quindi arriva l'artista ma accompagnato da tutto un entourage sano. E tu lo chiami Dio, io non do mai nomi a cose grandi di me, perché io non sono come te, ma conosco l'amore. Io che ho visto come te, dritto in faccia il dolore. Non si può non parlare della prima traccia, che ha avuto una storia molto particolare recentemente. Sì, che ha dato anche ottime soddisfazioni. Tu lo chiami Dio è il brano che apre l'album, non a caso, perché ha un valore particolare. Questo pezzo nasce in realtà, è la situazione in cui, non posso che non parlare di Sanremo ovviamente, perché c'è andato, è stato portato, ed è in quella situazione in cui l'interprete, in questo caso, ha scelto l'autrice. Finardi, che era il mio produttore artistico del primo lavoro, scoprì questo pezzo e quindi lo presentò all'attenzione di Morandi e venne accettato per Sanremo. Quindi c'è una penna che è la mia, accompagnata da una voce che ha 30 anni di differenza da me, quindi abbiamo unito anche generazioni in un unico brano e soprattutto abbiamo unito i punti di vista, come se fossimo saliti entrambi poi su quel palco, autore e interprete. Cosa hai provato quando sono partite le prime note ed era una cosa tua? Avevo la bacchetta in mano, facevo la direttrice d'orchestra a casa. No, era è stata forse l'esperienza più intensa che si possa vivere nell'ambito musicale a questo livello. Forse la parola emozione è inflazionata, però è l'unica che rende, cioè l'emozione era al 100% in quel caso. Io poi l'ho vista le prime due sere, le ho seguite da casa, quindi ero in punta di poltrona così. Le altre tre sere ero a Sanremo, quindi le ho vissute un po' più direttamente. Ma questo Sanremo lo fai tu? Lo faresti? Sanremo ti succhia l'anima, da autrice, immagino da interprete che cosa possa essere, però sarebbe una bugia dirti che non lo farei, certo. E per 140 caratteri è tutto, continuate a seguirci via Twitter tutta la settimana attraverso il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. Ci ritroviamo la prossima settimana.